Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. C'è un luogo di questo pianeta che si conosce poco quanto il sud, ed è il nord. I discorsi che si sentono sul mezzogiorno sono aberranti e quello che si dice del settentrione lo è altrettanto. Logico, non si può screditare l'uno senza disonorare l'altro. Buona giornata a tutti, quello che vi ho letto non è l'accenno, l'avvio di un discorso politico, è invece l'incipit, l'inizio del racconto d'autore che trovate questa mattina in edicola. L'autrice, in questo caso, racconto d'autrice si dovrebbe dire, è Amélie Nothomb. Il racconto si intitola Senza nome e comincia proprio così come vi ho letto, cioè dedicato a questa passione, a questa attenzione per il nome. Il nord che viene trascurato, e da lì poi si sviluppa una storia di un signore, di un protagonista che proprio andando a nord va in cerca della sua fidanzata ideale, della donna della sua vita. E poi non vi voglio dire altro perché non vi voglio togliere la sorpresa. Il volume che vi proponiamo oggi in edicola contiene due racconti di Amélie Nothomb. L'altro racconto si chiama L'entrata di Cristo a Bruxelles. Qui devo dire mi ci appoggio proprio in modo sgraziato, perché vorrei leggervi una cosa che sta su da tutt'altra parte, che non c'entra nulla con questi racconti d'autore, ma che ho trovato su Famiglia Cristiana. Allora l'idea che ci fosse in qualche modo un titolo che mi serviva mi aveva ingolosito. Allora vi ricordo ancora, racconti d'autore, oggi in edicola due racconti di Amélie Nothomb in vendita con Il Sole 24 Ore. Abbiamo cominciato in un modo un po' di poco canonico, ma poco canonica forse è anche la musica che ascoltiamo durante la messa. Non so quanti di voi ci abbiano fatto caso, c'è stata una polemica anche abbastanza prolungata sulla qualità della musica che si ascolta a messa, proprio delle lamentele di fedeli e anche di gerarchie ecclesiastiche che dicono ci sono un po' troppe chitarre poi magari non troppo ben suonate e canti non all'altezza delle celebrazioni liturgiche. Insomma, suoniamo della musica liturgica non adeguata. Certo, se uno pensa magari alle grandi composizioni del passato, è evidente che l'accompagnamento con una chitarra non può assolutamente reggere il confronto. Però questo non vuol dire che ci sia una sorta di disamore per questo tipo di musica, per questo tipo di genere. Della questione si occupa, come anche normale che accada, Famiglia Cristiana. Famiglia Cristiana sente due opinioni che non sono proprio diverse, sono diciamo complementari. L'una di Don Antonio Parisi, che è proprio responsabile nazionale per la musica sacra della Conferenza Episcopale Italiana. L'altra è l'opinione di Don Giosi Cento, che è un cantautore di musica leggera cristiana. Tra l'altro ha anche un suo gruppo musicale che si chiama Parsifal. I due concordano sul fatto che la musica che viene suonata in questi anni nella messa non sia talvolta all'altezza, però danno poi due letture leggermente diverse. La sciatteria che vediamo oggi in molte chiese, dice ad esempio Don Parisi, è figlia da un lato di un'ansia di voler stravolgere tutto. Perché? Perché dopo il Concilio Vaticano II, il passaggio dal latino all'italiano, abbiamo dovuto cambiare completamente il repertorio musicale. Questo non può avvenire in poco tempo, ma occorrono anni. È una considerazione molto condivisibile, perché ovviamente le grandi musiche sacre sono state composte in un periodo nei secoli, e invece qui si tratta sostanzialmente di qualche decennio durante il quale si è cercato di produrre nuova musica di nuovo tipo, musica liturgica appunto di nuovo tipo. Però, dice sempre Parisi, non dobbiamo dimenticare che molti trascurano che i fedeli non vanno a messa per ascoltare la musica, quindi si va a messa per pregare, e il fatto che ci sia un accompagnamento musicale non è poi così essenziale. In Italia, poi, dice Parisi, a differenza di altri paesi europei come Germania o Francia, siamo in una crisi musicale senza precedenti, una crisi che è frutto di politiche culturali sbagliate e di scarsi investimenti. Bisogna incentivare le scuole diocesane di musica sacra, è il richiamo, l'avvertimento di di Don Parisi. Don Cento invece, che appunto è un musicista, compone musiche, musica leggera cristiana, così si chiama, musica liturgica quindi anche, dice: a differenza di altre epoche storiche, mi sembra che il genio della musica liturgica moderna non sia ancora nato. Concorda con Don Parisi quando dice: oggi siamo in una fase molto delicata, una fase di passaggio in cui ci occorrono intelligenza, capacità di non litigare tra progressisti e tradizionalisti e soprattutto l'umiltà anche di riconoscere che non siamo noi i padroni della musica. Credo che ogni diocesi debba però promuovere al suo interno figure ad hoc per curare la musica liturgica. Questa non è musica liturgica, come avrete sicuramente capito. Questo è il sax di Charlie Parker. Charlie Parker è la proposta dei miti del jazz che facciamo questa settimana. L'antologia di Charlie Parker contiene una quindicina di brani. Questo si chiama Cool Blues. E Parker, beh, tra l'altro, insomma, accostare alla musica liturgica può sembrare irriverente, in realtà. Come forse avete potuto ascoltare nella puntata di ieri, raccontavamo che Parker ha avuto una vita tra le più dissolute, davvero tra le meno esemplari, pur all'interno della categoria dei musicisti jazz, che diciamo talvolta non brillano per la loro esemplarità, per la loro correttezza, ma più spesso hanno avuto vite sregolate. Parker, pensate, è morto a soli 35 anni, anzi non aveva neppure 35 anni, e non rimangono di lui tantissimi incisioni, anche perché era, come dire, poco regolare, poco assiduo, poco professionale, si direbbe, nel suo rapporto con i dischi, con la musica. Era però un insuperato interprete appunto del sax, un virtuoso senza pari, e 15 esempi, 15 testimonianze le trovate appunto in questo disco, in questo CD che proponiamo in edicola con il Sole 24 Ore, insieme a un volumetto da cui ho tratto anche qualcuna delle le considerazioni che vi ho presentato tra ieri e oggi a proposito di Charlie Parker. Non so se Roberto Scaltritti ci vuole rimettere un po' di questo splendido assolo che ho malamente interrotto. Ci resta un minuto più o meno, mi dice Roberto, un minuto circa prima di fermarci per le informazioni sul traffico. Allora io vi voglio lasciare in sospeso con una domanda. La domanda è: ma secondo voi lo stress fa bene? Ve lo chiedo perché è uscito di recente un libro che dice più o meno che bisogna avere fretta, perché la fretta fa bene, perché ne abbiamo bisogno e perché amiamo questo fatto di correre. Il libro è in inglese, l'ha scritto Todd Buchholz, e ne parla di questo libro Vera Montanari, il direttore di Grazia, in cui appunto contesta, prende diciamo giustamente a mio parere le distanze da questa tesi secondo la quale stressarsi, cioè lavorare troppo, non farsi mai bastare il tempo, eccetera, beh, tutto questo sarebbe in realtà tutta salute e gioverebbe alla qualità della nostra vita. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Ci stavamo interrogando su questo dubbio: lo stress fa bene? In realtà c'è un signore, appunto Todd Buchholz, che ha scritto un libro in cui sostiene che lo stress fa bene, che fa bene aver fretta, fa bene correre, perché in realtà noi amiamo la corsa al successo, e insomma tutto quello che è stato detto e scritto negli ultimi 20 anni contro lo stress, bah, in realtà sono tutte esagerazioni allarmiste prive di fondamento. Così riferisce Vera Montanari sul numero di grazia di questa settimana, e scrive poi, spiega Montanari, appunto riferendo la teoria di Buchholz, la fatica a rincorrere tempo che non basta mai, giostrarsi tra carriera e famiglia ci fa un gran bene, aguzza la nostra mente, alimenta un po' di sana adrenalina, ci dà piacere e soprattutto ci preserva dalle malattie cardiovascolari. Vera Montanari dice: va bene tutto, scrive su Grazia, dice: va bene tutto, ma questa è veramente grossa. Mi ricordo perfettamente di aver letto che chi lavora più di 10 ore al giorno è a rischio 2 volte di più di chi si attiene alle canoniche 8 ore. E in realtà spiega questo cosiddetto esperto che quello che fa bene è una dose moderata di stress. Se lo stress poi diventa eccessivo, allora il discorso cambia. E qui polemicamente Vera Montanari scrive: cioè, qualcuno mi dica come si fa a misurare lo stress e a decidere quando è il momento di fermarsi. Chiacchiere al vento. Io so solo che, e qui a parlare sono i numeri, non gli esperti, negli ultimi 20 anni gli americani hanno guadagnato 4 ore alla settimana da dedicare alle attività ricreative. Noi italiani, invece, nello stesso periodo, cioè gli ultimi 20 anni, abbiamo ritagliato soltanto 15 risicati minuti. E quanto alle donne, negli Stati Uniti hanno dimezzato le ore settimanali da dedicare ai lavori di casa, da 40 a 20 ore. Noi siamo ferme ai parametri delle nostre nonne. E allora, probabilmente lo stress non fa bene, forse una dose moderata di stress, chissà, potrebbe avere una qualche utilità, queste almeno sono le teorie di quelli che ne sanno di più. Invece ci può essere qualcosa che non solo fa del bene, ma fa bene, come il volontariato. C'è una bella ricerca che viene anticipata su Vita, settimana del no profit, in edicola questa settimana, una ricerca che sarà presentata settimana prossima, sarà presentata martedì 5 luglio a Roma, hanno provato a calcolare quanto vale davvero il volontariato, cioè dato un euro che si investe in volontariato, quanti se ne raccolgono, quanto si muove in termini sempre economici? Beh, se ne raccoglie 12 volte tanto. Così scrive Giuseppe Frangi, dice: per la prima volta è stato misurato il valore economico del volontariato con una ricerca Istat-CNEL che viene presentata il 5 luglio. I risultati spiegano che le organizzazioni garantiscono l'equivalente di quasi 390.000 unità lavoro. Tradotte in euro fanno 7 miliardi e 700 milioni. La politica capirà questi numeri. Vi vorrei tornare un istante su questo concetto dato 1 raccolto 12. Viene spiegato proprio nell'inizio dell'articolo di Giuseppe Frangi su Vita. Un euro rimborsato ai volontari, scrive Frangi, corrisponde a un ritorno economico di circa 12 euro. A questo risultato sono arrivati 2 ricercatori dell'Istat che hanno approfondito questo tema cruciale, cioè la valorizzazione economica del lavoro volontario. Ad ottobre l'Organizzazione Mondiale del Lavoro aveva varato proprio un manuale per misurare il lavoro volontario e questa ricerca italiana è la prima applicazione concreta di quel modello, che è un modello che poi è stato studiato appunto anche in altri paesi, elaborato per l'Organizzazione Mondiale del Lavoro, l'ILO. Risponde quello che si voleva con questa ricerca, rispondere alla domanda: è possibile valorizzare economicamente l'attività di volontariato di milioni di persone? Beh, la risposta è sì, anche se per sommi capi si può capire, utilizzando i dati del censimento, attribuendo dei valori economici, cosiddetti salari ombra, cioè quanto costerebbe l'apporto di un volontario se non fosse volontario, appunto, ma fosse da remunerare, si arriva a questa cifra che vi dicevo: 7 miliardi 779 milioni di euro. Cifra che, spiega sempre Frangi, sommata al valore della produzione del non profit, porta questo settore al di sopra del 4% del prodotto interno lordo. Cose che fanno bene, anche meglio di quello che pensiamo, come il volontariato, cose che non fanno bene, però continuiamo a tenerci, come ad esempio, chissà perché, le province. Adesso non devo dire, io non ho nulla personalmente contro le province, però è un dato di fatto, come ricorda Primo Di Nicola sull'Espresso di questa settimana, che sono anni, anzi decenni, che si parla di abolire le province. Anzi, quando se ne parla si dice anche che, insomma, in fondo le loro funzioni potrebbero essere essere svolte altrove, in altre sedi istituzionali, e quindi non ci sarebbe bisogno di mantenerle. Addirittura nelle campagne elettorali, e Primo Di Nicola lo ricorda, l'una e l'altra parte, ma diciamo tutte le parti politiche, sembrano convenire sempre sul dobbiamo abolire le province, l'abolizione delle province è fondamentale. E Di Nicola ricorda un po' di leader politici, ripeto, di destra, di sinistra, di centro, che hanno spesso detto, anche in occasione delle ultime elezioni, che era oramai tempo di superare le province. Però intanto il 15 giugno scorso è tornato in aula alla Camera un disegno di legge per abolirle, e questo disegno di legge non è stato votato. Quindi forse questa volontà di abolire le province poi non c'è molto. Perché? Perché, come argomenta Di Nicola, sono anche un posto di spese poco giustificabili in qualche modo. Qui si raccontano casi della lucchesità illustrata ai milanesi, o di mega cene per 500 persone per ospitare conferenze sul turismo, e altri sprechi ancora. Sarebbe probabilmente un po' ingiusto fare l'una o l'altra citazione, dovrei leggervi integralmente l'articolo, ma vi posso garantire, vi posso assicurare che, come riferisce Di Nicola sull'Espresso, la voglia di mettere del denaro in iniziative non sempre comprensibili, non immediatamente comprensibili, non pare davvero essere prerogativa dell'una o dell'altra parte politica, dell'una appunto non è esclusiva di nessuno dei partiti. Un po' tutti poi ricorrono spesso alle province, proprio perché qui si può avere un festival delle spese pazze, così come scrive, come recita il titolo dell'articolo di Di Nicola sull'Espresso. Un paio di minuti per segnalarvi, proprio perché stiamo parlando di sprechi, un settimanale che però non potrete trovare in tutta Italia, è più facile che lo troviate nelle regioni meridionali, si trova a Roma, si chiama Corriere della Calabria. Lo segnalo perché è appena partito, è un'iniziativa nuova, giovane, quindi, come dire, come tutte le iniziative giovani, fa piacere sostenerla. Corriere della Calabria è un settimanale che, come spiega la sua copertina, si occupa di cronaca, politica, cultura, spettacoli e sport. È arrivato al terzo numero. Sul numero di questa settimana la copertina è proprio dedicata agli sprechi, assetati dagli sprechi. E la storia di copertina è quella della diga del Melito, che è costata 80 milioni ma non ci sarà mai. Così spiega appunto la già in copertina. Poi all'interno un articolo di Gaetano Mazzucca spiega che è un'eterna incompiuta, doveva servire 50 comuni questa diga, ma in realtà sono passati ormai 30 anni, il primo progetto è del 1982, fu finanziato dalla Cassa del Mezzogiorno, allora si stanziarono 500 miliardi di lire, sono passati oramai appunto 30 anni inutilmente, la procura naturalmente sta indagando. Anche il Sole 24 Ore si è occupato nei mesi scorsi di questa vicenda della diga del Melito. È una vicenda che sta assumendo ormai dimensioni nazionali, anche per, come dire, l'entità dello spreco, del dichiarato spreco. Lo trovate, lo voglio ripetere, sul Corriere della Calabria, terzo numero, più facile che troviate questa testata nelle regioni meridionali, naturalmente in Calabria, ma non solo, e sicuramente nella città di Roma. Allora, Roberto Scaltritti mi fa dei gran segnali per spiegarmi che ho circa mezzo minuto prima di salutarvi. Allora, io innanzitutto lo ringrazio, grazie per essere stato con me questa mattina, questa domenica mattina. Grazie naturalmente anche ad Anita Panizza, che come sempre mi ha aiutato a selezionare le cose da leggere e da proporvi. Vi voglio anche dire che se volete scriverci potete utilizzare la nostra mail, la nostra posta elettronica, il nostro indirizzo è magazine24, ovviamente 24 scritto a numero, @radio24.it, e poi il sito www.radio24.it, dove trovate informazioni su questo programma e su tutti i programmi di Radio 24. E qui Roberto mi fa proprio segno che abbiamo finito, il tempo si è esaurito, e allora io vi auguro una splendida, ottima domenica. Magazine 24 ritorna sabato prossimo.